Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento settimanale, il primo di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori. Ben trovata all'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. Torniamo a parlare di una questione di cui ci siamo occupati già un paio di volte, ma evidentemente il problema persiste se torniamo a parlarne a 2 mesi di distanza. Ancora conguagli a 3 zeri circa, ma anche se fossero 2 con l'ultima cifra, con la prima cifra molto alta, sarebbero comunque corposi nelle bollette di luce e gas. Si torna a parlarne perché ce n'è bisogno evidentemente. Sì, esatto, infatti qui in associazione le richieste di aiuto sono sempre di più, quindi da ultimo proprio ci è arrivata un'altra segnalazione molto importante, molto significativa da parte di una nostra associata, alla quale è arrivata un conguaglio che comprende il periodo degli ultimi 5 anni che ammonta a 4.000 euro, quindi parliamo di un utente che ha delle abitudini di vita abbastanza modeste, infatti parliamo di una signora pensionata che abita col marito e in una casa di modeste dimensioni, alla quale è arrivata una bolletta da parte di Enel Energia del valore di 4.025 euro, ecco. Questo è quanto. Consumi reali e magari notificati tardi, cioè com'è la questione? Esatto, allora la socia sostanzialmente si trova a dover pagare per 5 anni di fila delle bollette abbastanza moderate che si aggirano intorno a consumi medi di circa 200 euro bimestrali, ecco. Poi di punto in bianco, mi ricordo anche la data perché è stato il 20 dicembre 2012, quindi poco prima del Natale, è arrivato questo conguaglio assurdo, cioè questo conguaglio veramente veramente veramente esoso di questa bolletta, alla quale noi da parte dell'ufficio legale di Adico siamo immediatamente intervenuti chiedendo appunto una rivisitazione, una riverifica della fatturazione ed un controllo del contatore, ecco. E questi controlli hanno dato quale esito? Beh, generalmente questi controlli vengono fatti in maniera abbastanza automatica, quindi questi controlli sostanzialmente, in questi controlli loro vanno a verificare quelli che sono stati i consumi effettivi degli ultimi anni e sostanzialmente ci hanno confermato gli importi. Il problema di fondo qui è che per 5 anni l'ente distributore ha provveduto ad inviare una fatturazione basata esclusivamente su dei consumi stimati e non effettivi, quindi sostanzialmente l'utente si è illuso che quella soglia mensile che gli arrivava da corrispondere fosse l'importo reale. In realtà a fronte di una lettura effettiva effettuata a ben 5 anni di distanza è stato riscontrato che quei consumi non corrispondevano a quelli reali. Per questo motivo noi di Adico abbiamo ancora una volta cercato un contatto con l'autorità garante per l'energia elettrica e per il gas, insomma, in maniera tale da poter introdurre insomma delle direttive che permettono di salvaguardare il più possibile gli interessi dell'utente, ovvero noi come associazione abbiamo proposto all'autorità garante di ridurre il termine per effettuare questo conguaglio, ovvero di non renderli più possibili per un arco temporale di ben 5 anni, ma di presentarli a scadenza annuali, quindi per esempio ogni 30 marzo, cioè alla scadenza del 30 marzo di ogni anno, fare in modo che tutti gli utenti abbiano una lettura effettiva e che tutti gli utenti possano corrispondere agli eventuali conguagli per quell'anno di riferimento. Questo poi con i contatori elettronici, insomma, dovrebbe essere abbastanza facile, dovrebbe essere abituale, e poi c'è anche l'autolettura che uno può sempre fare. Sì, quella è sicuramente buona norma, cioè noi lo consigliamo sempre ai nostri utenti, anche se poi tante volte magari presi dalle necessità del lavoro e dai ritmi di vita così prestanti magari uno si dimentica anche di fare l'autolettura, ma proprio quello che noi di Adico vogliamo evidenziare è che questo atteggiamento da parte dei grandi distributori è pregiudizievole per un utente che magari, come capita per la maggior parte dei casi, è distratto o poco attento a quello che sono poi le fatture, a quello che sono poi le normali abitudini di effettuare abituare l'autolettura. Quindi il nostro scopo è quello di ridurre questo vaglio da parte dell'ente distributore, che si deve estendere in un periodo così lungo, insomma così esteso, di ben 5 anni, e di fare in modo che questi tipi di conguaglio, se devono essere effettuati, avvengano annualmente. Questa bolletta da oltre 4.000 euro, ma come già in altri casi, credo possa essere, spero, per l'utente possa essere rateizzata. Sì, certo. Di solito questi grandi enti distributori prevedono una rateazione abbastanza fissa. Dipende poi dall'ente distributore. Ad esempio ci sono compagnie che consentono un numero di rate che si aggira intorno alle 30. Altre compagnie che invece sono molto più contenute per quanto riguarda la rateazione consentono al massimo 6 o 8 rate. Ovviamente con l'intervento di noi di Adico siamo riusciti ad ottenere una rateazione In un numero di rate assolutamente maggiore. Adesso vado un po' a memoria, mi sembra che in questo caso qua siamo riusciti ad rateizzare per un importo di circa 60 euro mensili, che quindi insomma tutto sommato possono essere anche fronteggiati dall'utente, ovviamente chiedendo anche un ridimensionamento dei tassi di interesse applicati. Quindi tutto sommato è vero che l'utente andrà avanti a pagare questo importo per molto tempo, però lo fronteggerà insomma con degli importi mensili irrisori, ecco. E comunque affrontabili, insomma, sì. Per arrivare poi a pagare quello che effettivamente consuma ogni mese. Esatto. Questa vicenda dunque ancora una volta in evidenza. Ringraziamo l'Adico e l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale. Appuntamento alla prossima. Grazie a te, saluti a tutti. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.